Sicilia, Dragon Clan babies, è la Sicilia, yeah. Firenze rima DK from 99 style, yeah. Vivo tra guerrieri, b-boys più fieri. Firenze m'ha dato quello che non avevo ieri. Ed è così la storia dal sud parte. Houston tutto ok, sono arrivato a campo di Marte. Bus verso la culla del rinascimento. Adesso sarai la culla di ogni mio sogno quando la luce spengo. Poche monete in tasca, il giusto quanto basta per prendere una dimora e trovare lavoro in questa casta. Occhi fissi e testa bassa, mentre timpano cattura un rullante e una cassa. Suoni, colori, lampredotte, suoi odori. Prima soddisfa le pupille, dopo muori. Questa City ti dà una bella realtà, che se ti trovi a parlare con quattro persone stai comunicando con il resto dell'umanità. Come chi ti porta il calor, tipo B-Boy Gary the Dog from Salvador. E by night ancora più suggestiva, mentre di giorno tutte quelle chiese la rendono più viva. Parlo da immigrato siciliano e non scorderò mai la mia gente, ma rispetto la città che mi ospita e ne sarò per sempre riconoscente. Riconoscente, riconoscente, man. Cambiano le città, ma il palco è sempre uguale, fonte per comunicare, una goccia dal sud venuta per colmare. Cambiano le città, ma il palco è sempre uguale, fonte per comunicare, una goccia dal sud venuta per colmare. Cambiano le città, ma il palco è sempre uguale, fonte per comunicare, una goccia dal sud venuta per colmare, venuta per colmare. Vicoli stretti, la pioggia che batte sui tetti, sulle statue che cambiano forma in base a come ti metti. Giotto i sei cerchi, ma se cerchi sotto i portici trovi b-boys che ne formano parecchi. La storia resta quella di un poeta di Santa Maria che qua ha trovato una novella. La guardo la libertà delle colombe sui canali, planano da tetto a tetto un po' come me di miei compari. Spreco tutti i calamai cercando di scrivere al meglio il mio futuro e cancellare tutti i guai. Dimmi che oramai lo sai, che se vado al Duomo vedo luccicare l'oro che finora non ho visto mai. Mai Firenze è quella cittadina, anima di tanti film e vita di ogni cartolina che spedisco nella mia Sicilia, augurando tutto il bene alla mia gente lontana ma che mi sta vicina, vicina. Rima dopo rima, adesso dopo è come prima. Pieghi la testa per forza perché scrivo con l'inchiostro di china. In sovrapproduzione come in Cina, smercio questi averi. Ogni mio foglio c'ha cultura come nonna Rita Levi. Yeah. Cambiano le città, ma il palco è sempre uguale, fonte per comunicare, una goccia dal sud venuta per colmare. Cambiano le città, ma il palco è sempre uguale, fonte per comunicare, una goccia dal sud venuta per colmare. Cambiano le città, ma il palco è sempre uguale, fonte per comunicare, una goccia dal sud venuta per colmare, venuta per colmare. Sono sogni ad occhi aperti che scorrono via come piogge sopra i testi. Spremono quegli intelletti abituati a dare l'anima pur di realizzare quei progetti. Le mani sono in aria, i piedi restano per terra, anche se a volte basterebbe alzarne uno per provocare guerra. Fredda, il privo di cultura, perché l'hip hop è mente aperta, non cervello tra le mura. Sono sogni ad occhi aperti che scorrono via come piogge sopra i testi. Spremono quegli intelletti abituati a dare l'anima pur di realizzare quei progetti. Le mani sono in aria, i piedi restano per terra, anche se a volte basterebbe alzarne uno per provocare guerra. Fredda, il privo di cultura, perché l'hip hop è mente aperta, non cervello tra le mura. Cambiano le città, ma il palco è sempre uguale, fonte per comunicare, una goccia dal sud venuta per colmare. Cambiano le città, ma il palco è sempre uguale, fonte per comunicare, una goccia dal sud venuta per colmare. Cambiano le città, ma il palco è sempre uguale, fonte per comunicare, una goccia dal sud venuta per colmare, venuta per colmare. Cambiano le città, ma il palco è sempre uguale, fonte per comunicare, una goccia dal sud venuta per colmare. Cambiano le città, ma il palco è sempre uguale, fonte per comunicare, una goccia dal sud venuta per colmare. Cambiano le città, ma il palco è sempre uguale, fonte per comunicare, una goccia dal sud venuta per colmare, venuta per colmare.